Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Dopo il GR di Radio Popolare si ritorna in diretta sui 103.1, il Breakfast Club nell'imprevedibile martedì dei 103.1 prevede un last minute. Ok, l'estate ormai ha chiuso i battenti, ma come ben sapete noi amiamo tantissimo la stagione più calda, per cui so chi condivide le mie parole ed è qui al telefono con noi. Avremo modo di prolungare microsensazioni e macro emozioni all'interno di un amplificatore naturale che è il deposito delle memorie, il cimitero monumentale della Certosa. Un protagonista per diverse edizioni, anche per queste, Alessandro Tampieri, al quale do il buongiorno. Buongiorno Alessandro. Buongiorno William a tutte e tutti voi. Grazie della levataccia, sapevo che non mi avresti abbandonato. Non potevo. Anche per empatia sull'estate. Che assolutamente procede, sì. Che procede con gli appuntamenti di Certosa Estate. Allora è un last minute anche perché parleremo di due date. Poi magari nell'avvicinare della seconda avremo modo di ulteriore approfondimento. Il 20 e il 30 settembre abbiamo modo di salutare questa stagione con un trekking, così definito trekking dell'anima. Di che si tratta, Alessandro? Allora, il trekking dell'anima è l'appuntamento del 30 settembre, che è un appuntamento più lungo, che non sarà in Certosa, è un appuntamento che sarà itinerante per la città di Bologna dal tramonto all'alba. È una sfida per attraversare la notte, ma come tutti gli appuntamenti al buio noi non vi diciamo che cosa faremo, perché al buio vi diamo un punto di incontro che verrà comunicato il giorno prima, e è un modo per scoprire luoghi e persone della città che hanno storie da raccontare. E tutto questo però è un modo anche per affidarsi alla notte con un gruppo di persone che non si conoscono. È una sfida sulla fiducia, su un progetto di teatro partecipato in cui noi lo proponiamo, non facciamo i performer e gli artisti questa volta, ma facciamo le guide, vi guidiamo e facciamo fare delle cose artistiche, partecipate, interattive, per esplorare la città in maniera diversa. La stessa formula in maniera ridotta la proponiamo in Certosa mercoledì 20 alle ore 21 per vivere la Certosa già a fine estate, già con il buio, ahimè purtroppo, e in un percorso all'interno della Certosa di 2 ore in cui non avremo ospiti esterni, perché comunque la Certosa è ricca di tante presenze e ci basta tutta la ricchezza delle suggestioni che offre per riempire quel percorso, e si esplorerà in maniera artistica. Quindi non è una visita guidata, quelle le lasciamo fare alle guide che le sanno fare bene. Noi proponiamo un percorso artistico in cui i veri protagonisti diventa il pubblico. Certo, indubbiamente una lodevole iniziativa per diversi aspetti, continuare a conoscere, avere contatto con questo posto magico ma assolutamente concreto, una città nella città, avere anticipazione di quello che sarà poi il 30 con questo trekking molto più esteso. Allora ti chiedo, organizzazione è all'interno di Certosa Estate, Alessandro? Sì, cioè sono chiaramente due eventi diversi. Per quello che riguarda la data in Certosa, siamo come sempre ospiti del buon Roberto Martorelli nella rassegna estiva organizzata come ogni anno ormai da 15 anni a questa parte dal Museo Civico del Risorgimento all'interno della Bologna Estate. E nel caso specifico invece del 30 siamo in collaborazione con Itaca, il festival Festival del Turismo Responsabile, che ci invita a vivere i luoghi con un'ottica nuova, in una maniera da prospettive nuove. Itaca, poi, oltre che la famosa isola, è anche una locuzione nel vernacolo felsinio, che è sei a casa. Sì. Itaca, sei a casa. Esattamente. Insomma, l'ho un po' interpretato a modo mio, ma penso di aver azzeccato. Allora, i due appuntamenti collegati fra di loro, seppur con realtà e aspetti eterogenei, sono uno domani. A che ora, Alessandro? Allora, domani alle ore 21 in Certosa, con appuntamento come per tutti gli appuntamenti della Certosa all'ingresso principale, sì, un quarto d'ora prima dell'inizio, e il 30 settembre in un punto della città che ancora non possiamo rivelare. Perché è un appuntamento al buio, ma mi incuriosisce, e non solo per la partecipazione, ma ovviamente anche per i contenuti. È un trekking dell'anima, quindi indubbiamente l'aspetto di percorso, di verità nel camminare assieme con fiducia per portare a conoscere non solo nuovi luoghi, che nuovi non sono ma sono sempre presenti, e anche compagne e compagni di viaggio. Hai parlato di fiducia, in effetti è un aspetto di cui in questo periodo questo contenuto è assolutamente, diciamo così, un pochettino lasciato da parte, ma onore al merito a chi vuole riportare fiducia nel prossimo, insomma. Quindi, oltre che l'arte, ci sono tanti aspetti che vogliamo sottolineare. Bravo Alessandro! Grazie. Mi permetti, visto che citavi compagni di viaggio, non posso non ringraziare le compagne di viaggio di questa sfida, Sara Giordani e Giuditta De Concini di SamaPS e Associazione Giaia, con cui abbiamo creato questa idea che abbiamo chiamato Metro Zero. Ma volevo ringraziare anche il Patto per la Lettura a Bologna e Trame Libreria Bookshop, perché a ogni percorso ci sostengono e supportano con stimoli e spunti letterari. Soprattutto in Certosa, noi crediamo che la Certosa sia un bellissimo luogo dove scambiare idee, sì, e libri, è una biblioteca umana, e quindi avere spunti letterari sul tema e prospettive, temi a cui aggrapparsi ogni volta e da cui partire, è sempre un grandissimo aiuto, quindi non potevo non ringraziarle. E bravi anche per dettagliare le tante emozioni che un posto così magicamente concreto come il deposito delle memorie della nostra città può regalare. Ogni volta è una sorpresa, del resto è l'imprevedibile martedì che vi porta con un last minute all'interno del Monumentale, con le bellezze, con la forza, con l'aspetto introspettivo della ricerca, un trekking che poi sarà in seguito il 30 settembre, ma di questo ne parleremo in maniera molto più dettagliata. Ok Alessandro, rimaniamo d'accordo così? Certamente ci sarò. Okay. Magari ti metto a tuo agio con orario e quant'altro. Ascolta, ovviamente adesso io non sono un genio, tutt'altro, anzi sono un troglodita digitale, tutte informazioni che si possono trovare su diversi siti anche, ok? Si possono trovare sul sito di Itaca per quanto riguarda il percorso del 30 settembre, si possono trovare sul sito della Storia e Memoria di Bologna, che è il sito della Certosa, col programma ufficiale della Certosa per quanto riguarda domani. Tutte le prenotazioni avvengono alla mail progettometro0@gmail.com oppure chiamando il 338 930 0148. Ovviamente tutti gli appuntamenti di Certosa e estate, anche la curatela di Itaca con Radio Città Fujiko, ne diamo diffusione e ne siamo ben contenti. Ti ringrazio Alessandro. E noi ringraziamo voi. Offrirti la colazione per il prossimo incontro. Ah, dimenticavo, il tracking notturno. Turno, poi il tracking dell'anima si conclude con una colazione, così. Beh, vabbè, sì, dobbiamo aspettare che aprono i bar, quelli che aprono all'alba, quindi per forza dobbiamo sa da passare a nuttata, come si dice. Da passare a nuttata, va bene. Grazie Alessandro, ti abbraccio forte. Grazie William, un abbraccio ciao, a te. Ciao. A presto. bolle verdi a colazione, green onions, Booker T and the MGs. Yeah. 7:56 minuti, ascoltiamo un po' di musica, andiamo in pubblicità, rientriamo con il Mood Groove, il buongiorno imprevedibile del martedì, non avevo dubbi, puntualissimo è Lino, grazie Lino, a tra poco. La palla 2 di Paolo Onofri oggi sarà chiamato in causa perché avremo un motivo di discussione molto specifico, abbiate pazienza, ma insomma oggi il Mood Groove sarà un pochettino tecnico e specifico, ci sarà la musica, gli interventi di Paolo e ovviamente la comunicazione con voi al 333 180 9494. A tra poco.